Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. E voi? Siete un parente amico di Milady Lyndon? Milord George? Dissi con tono di profonda sorpresa. Sì, certo, rispose il giovane gentiluomo. Ho lasciato casa sua per prendermi questa brutta ferita da voi e mi è capitata proprio in un momento disgraziato. Perché più disgraziato di qualsiasi altro momento? Diamine, ascoltate, cavaliere. Credo che io non stessi indifferente alla vedova. Penso che avrei potuto convincerla a stringere ancora di più il nostro legame, per dirla tutta. Anche se lei è più vecchia di me, quanto a ricchezza è il miglior partito che ci sia ora in Inghilterra. Milord George, dissi, mi permettete di farvi una domanda franca, ma molto strana? Mi fareste vedere le sue lettere? Ma certo che no! Non farò mai una cosa del genere, disse lui furioso. Su, non vi arrabbiate. Se io vi mostro certe lettere che Lady Lyndon ha scritto a me, voi mi mostrerete quelle scritte a voi. In nome del cielo! Che cosa volete dire, Mr. Barry? Chiese il giovane gentiluomo. Voglio dire che io amavo appassionatamente Lady Lyndon. Voglio dire che io sono che io non le stavo affatto indifferente. Voglio dire che l'amo alla follia in questo stesso momento e che ucciderò l'uomo che la ottiene prima di me o morirò io stesso. Voi sposare la più ricca ereditiera e il più nobile sangue d'Inghilterra? Disse Lord George altezzoso. Non c'è sangue più nobile del mio in tutta Europa, risposi, e vi dico che nonostante ciò non so se nutrire speranze o no. Però so questo, che ci sono stati giorni in cui, povero come sono, la grande ereditiera non sdegnava di abbassare lo sguardo sulla mia povertà e che chiunque la sposa dovrà prima passare sul mio cadavere. Per voi è stata una fortuna, aggiunsi con uno sguardo cupo, che al tempo del mio duello con voi non conoscessi le vostre mire su Lady Lyndon. Mio povero ragazzo, siete un giovane di fegato e io vi voglio bene. La mia è la miglior spada d'Europa e voi avreste potuto dormire in un letto ben più stretto di questo che occupate adesso. Ragazzo, disse Lord George, non ho neanche 4 anni meno di voi. Voi avete 40 anni meno di me. Quanto esperienza! Io ho vissuto in tutti gli ambienti, dai più alti ai più umili. Ho fatto fortuna con la mia abilità e il mio coraggio. Ho preso parte a 14 battaglie campali come soldato semplice. Sono sceso 23 volte sul terreno e non sono stato toccato che una volta, quando mi ha colpito la spada di un maestro d'armi francese, che poi ho ucciso. Ho esordito nella vita a 17 anni, da pezzente, e ora sono un uomo di 27 anni e ho 20.000 guinee. Credete forse che un uomo coraggioso e energico come me non debba riuscire in tutto ciò che intraprende e che, visto che ho dei diritti sulla vedova, non li farò valere? Questo discorso non era proprio letteralmente vero. Avevo un po' gonfiato il numero delle battaglie, dei duelli e delle guinee, ma vidi che aveva fatto l'impressione che volevo sul giovane lord. Ascoltò la mia dichiarazione con grandissima serietà e poi lo lasciai lì a digerirla. Dopo un paio di giorni tornai di nuovo a trovarlo, portando con me qualcuna delle lettere che ci eravamo scambiati io e Milady Lyndon. Ecco, dissi, guardate, ve la mostro in confidenza. È una ciocca di capelli di sua signoria e queste sono le sue lettere firmate Calista e rivolte a Eugenio. Questa è una poesia. Quando orna Apollo il bel prato di luce e la pallida Cinzia mesce i raggi, l'ha scritta sua signoria Milady per il vostro umile servitore. Calista? Eugenio? Orna Apollo il bel prato di luce? Gridò il giovane lord. Sto sognando? Ma mio caro Barry, la vedova mi ha spedito la stessa identica poesia. rallegrandomi al sole che riluce o meditando gli oscuri paesaggi. Non potei trattenermi dal ridere quando citò questi versi. Erano davvero le stesse parole che la mia Calista aveva rivolto a me. E scoprimmo, confrontando le lettere, che interi brani di bello stile apparivano in tutti e due gli epistolari. Guardate un po' fin dove può arrivare un intellettuale in gonnella con la passione della corrispondenza. Il giovanotto depose le carte molto agitato. «Beh, grazie al cielo», disse dopo una pausa piuttosto lunga, «grazie al cielo che me ne sono sbarazzato. Ah, Mr. Barry, che razza di donna avrei sposato se queste benedette carte non mi fossero capitate tra le mani? Credevo che Milady Lyndon avesse un cuore, signore, devo confessarlo. Non un cuore molto caloroso, questo no, ma credevo che almeno ci si potesse fidare di lei. Ma sposarla ora sarebbe come mandare il mio servo giù in strada a trovarmi una moglie, sposare una simile matrona di Efeso. Milord George, dissi io, voi conoscete poco il mondo. Tenete a mente che pessimo marito avesse Lady Lyndon, e non vi stupite che anche lei, per parte sua, sia fredda e indifferente. Del resto ci scommetterei che non ha mai oltrepassato i limiti di un'innocua galanteria o commesso peccati più gravi della composizione di un sonetto o di un biglietto galante. Mia moglie, disse il piccolo lord, non scriverà sonetti né biglietti galanti, e sono sinceramente felice di aver conosciuto in tempo la vera natura di quella bisbetica senza cuore di cui per un momento mi ero creduto innamorato. Il giovane lord che avevo ferito era o molto giovane, come ho detto, e molto inesperto delle cose del mondo. In fondo, immaginare che un uomo rinunci a 40.000 sterline annue perché, figuriamoci, la signora che le possiede ha scritto qualche letterina sentimentale a un giovanotto è una bella assurdità. Oppure, e credo che fosse così, era ben contento di trovare una scusa per lasciare il campo una volta per tutte, non avendo nessuna voglia di incontrare una seconda volta la spada vittoriosa di Redmond Barry. Quando il pensiero che Lord George Poynings fosse in pericolo, o più probabilmente i rimproveri che lui le aveva rivolto al mio riguardo, ebbero spinto, come prevedevo, quella debolissima e fragilissima donna fino a Dublino, e il mio degno Ulick mi informò del suo arrivo, lasciai la casa di mia madre, che si era ormai riconciliata con me. Il duello aveva fatto miracoli. Scoprì che la sconsolata Calista aveva preso l'abitudine di far visita al suo spasimante ferito, con grande irritazione di quel gentiluomo, così mi dissero i suoi servi. Spesso gli inglesi sono assurdamente gonfi di nobili ideali quando si tratta di questioni di puntiglio. Visto il modo in cui la sua parente si era comportata, Lord Poynings giurò di non avere mai più a che fare con lei. Venne a saperlo dal domestico di sua signoria, che avevo fatto molta attenzione a tenermi amico, come ho già detto, e quando mi recai là in visita, il portiere non mi impedì di salire, come invece era accaduto in passato. Molto probabilmente Milady Lyndon aveva dato una mancia al portiere, proprio come me, perché era riuscita a salire nonostante le fosse stato dapprima negato l'ingresso. Anzi, io stesso l'avevo tenuta d'occhio da casa sua alla residenza di Lord George Poynings. Qui l'avevo vista scendere dalla portantina ed entrare subito prima che io la seguissi. Mi proponevo di aspettarla tranquillamente nell'anticamera per farle una scenata lì e rimproverarle la sua infedeltà, se necessario. Ma volle il caso che la faccenda andasse in modo molto più comodo per me. Mentre entravo, senza essere stato annunciato, nella stanza esterna degli appartamenti di sua signoria, ebbi la gioia di sentire nella camera accanto, attraverso la porta accostata, la voce della mia Calista. Si era lanciata all'inseguimento della preda, chiamava per nome il povero malato che giaceva confinato nel suo letto e gli rivolgeva parole vibranti di passione. cosa può indurvi, George, diceva, a dubitare della mia fedeltà? Come potete spezzarmi il cuore cacciandomi via in questo modo mostruoso? Volete forse condurre la vostra Calista alla tomba? E sia, raggiungerò là il mio povero angelo scomparso. Che c'è entrato 3 mesi fa, ribatté Lord George, sogghignando. È un miracolo che voi siate sopravvissuta tanto a lungo. Non trattate la vostra povera Calista in questo modo terribilmente crudele, Antonio, gridò la vedova. Ah, disse Lord George, la mia ferita va male. I miei dottori mi vietano di parlare troppo. Diciamo che il vostro Antonio è stanco, mia cara. Non potete consolarvi con qualcun altro? Santo cielo, Lord George! Antonio! Consolatevi con Eugenio, disse il giovane gentiluomo con voce amara, e si mise a suonare la campanella. Subito venne fuori il suo domestico, che si trovava in una stanza interna, e Lord George ordinò di accompagnare sua signoria Lady Lyndon di sotto. Lady Lyndon uscì dalla camera agitatissima. Era vestita a lutto stretto, con il viso velato, e non riconobbe la persona che aspettava in anticamera. Mentre scendeva le scale, la seguì in punta di piedi, e quando il portantino le aprì lo sportello, balzai avanti e le presi la mano per aiutarla a salire. «Carissima vedova», dissi, «sua signoria ha detto bene, consolatevi con Eugenio». Era troppo spaventata anche per gridare, mentre la portantina la trascinava via. Si fermò solo davanti a casa sua e, naturalmente, ero di nuovo allo sportello per aiutarla a scendere. «Mostro», disse, «vi chiedo di andarmene, signora». «Sarebbe contrario al mio giuramento», risposi io. «Ricordatevi della promessa che Eugenio inviò a Calista. Se non ve ne andate, chiamerò i domestici perché vi caccino via dalla mia porta». «Come? Proprio quando sono venuto con le lettere della mia Calista in tasca, forse per restituirle?» «Potete prendermi con dolcezza, signora, ma non potete spaventare Redmond Barry». «Che cosa vorreste da me, signore?» disse la vedova, visibilmente scossa. «Lasciatemi salire e vi dirò tutto», risposi. E lei acconsentì a porgermi la mano e a permettermi di condurla dalla portantina al suo salotto. Quando restammo soli, le rivelai onestamente le mie intenzioni. «Carissima signora», dissi, «non lasciate che la vostra crudeltà spinga uno schiavo disperato a misure estreme. Io vi adoro. In altri tempi voi mi permettevate di sussurrarvi liberamente la mia passione e adesso mi cacciate dalla vostra porta, lasciate le mie lettere senza risposta e preferite un altro a me. Sono anch'io fatto di carne. Non è nella mia natura di sopportare un trattamento simile. Considerate la punizione che sono stato costretto a infliggere. Tremate al pensiero di quella che potrei essere forzato a imporre a quello sfortunato giovane. Se vi sposa, signora, certamente morirà». «Io non vi riconosco», disse la vedova, «il minimo diritto di dettar legge alla contessa di Lyndon. Non comprendo nulla delle vostre minacce e non me ne curo. Che cosa c'è mai stato tra me e un avventuriero irlandese che possa autorizzare questa impertinente intrusione?» «Ci sono state queste, signora», dissi io, «le lettere di Calista a Eugenio. Può darsi che fossero del tutto innocenti, ma il mondo lo crederà? Può darsi che voi voleste soltanto giocare con il cuore di questo povero ingenuo, questo gentiluomo irlandese che vi adorava e aveva fiducia in voi. Ma chi crederà alla storia della vostra innocenza di fronte alla testimonianza irrefragabile della vostra stessa scrittura? Chi crederà che abbiate potuto scrivere queste lettere per puro capriccio di civetteria e non sotto l'influsso di un vero affetto?» «Canaglia!» gridò Milady Lyndon. «Osereste cavare da quelle mie futili lettere un significato diverso da quello che realmente hanno?» «Ne caverò di tutto», dissi. «Tanto grande è la passione che mi spinge verso di voi. Io l'ho giurato, dovete essere mia, E lo sarete. Vi risulta che io abbia mai promesso di condurre a buon fine qualcosa senza poi mantenere l'impegno? Cosa preferite avere da me? Un amore quale nessuna donna ha mai avuto da un uomo? O un odio di cui non esiste l'eguale? Una donna del mio rango, signore, non può temere nulla dall'odio di un avventuriero come voi, rispose la signora, drizzandosi orgogliosamente in piedi. Guardate il vostro Poynings. Non era del vostro rango, lui? Siete voi la causa della ferita di quel giovanotto, signora. E se lo strumento della vostra selvaggia crudeltà non si fosse impietosito, sareste stata l'autrice del suo omicidio, sì, del suo omicidio. Se una moglie è infedele, non è lei che arma il braccio del marito perché punisca il seduttore? E io, Honoria Lyndon, vi considero mia moglie. Marito, moglie, signore, strillò la vedova stupefatta. Sì, moglie, marito. Io non sono una di quelle povere creature con cui le civette possono giocherellare per poi gettarle in un angolo. Voi vorreste dimenticare quello che c'è stato tra di noi a Spa. Calista vorrebbe dimenticare Eugenio, ma io non mi permetterò di dimenticarmi. Pensate di trastullarvi con il mio cuore, non è vero? Ma una volta ferito, Honoria, è ferito per sempre. Io vi amo. Vi amo ora con la stessa passione di quando la mia passione era senza speranza. E ora che posso conquistarvi, credete che vi lascerò andare? Crudele, crudele Calista, voi ignorate il potere del vostro fascino. Se credete che i suoi effetti si possano cancellare così facilmente, ignorate la costanza di questo cuore puro e nobile. Se credete che, dopo avervi amata una volta, possa mai cessare di adorarvi, giuro per la vostra crudeltà che questa crudeltà io la punirò. Giuro per la vostra meravigliosa bellezza che questa bellezza io la conquisterò e meriterò di averla vinta. Donna incantevole, affascinante, volubile e crudele, sarete mia, lo giuro. Può darsi che la vostra ricchezza sia grande, ma la mia natura non è abbastanza generosa da usarne in modo degno. Il vostro rango è elevato, ma non quanto la mia ambizione. Vi siete già sprecato una volta con un debosciato freddo e snervato. Datevi ora a un uomo, Honoria, a un uomo che per quanto elevato possa essere il vostro rango, lo eleverà ancora e ne sarà all'altezza. Mentre riversavo questo genere di discorsi sull'attonita vedova, la dominavo con la mia statura, la affascinavo col balenare del mio sguardo e la vidi arrossire e impallidire per la paura e la meraviglia. Vidi che le lodi che tributavo al suo fascino e la descrizione della mia passione non le erano sgraditi e constatai con calma trionfante il dominio che stavo ottenendo su di lei. Il terrore, statene certi, non è un cattivo ingrediente dell'amore. Un uomo fieramente deciso a conquistare il cuore di una donna debole e svaporata non può non riuscire, se soltanto ha occasioni sufficienti. «Uomo terribile!» disse Lady Lyndon, ritraendosi da me, quando avevo appena finito di parlare. Ero davvero a corto di parole e mi stavo preparando a un altro discorso da farle. «Uomo terribile! Lasciatemi sola!» Da queste stesse parole capii che le avevo fatto una certa impressione. «Se mi lascia entrare in casa domani», mi dissi, «è mia». E quando scesi, misi 10 guinee in mano al portiere, che restò sbalordito di un simile dono. «È per compensarvi del disturbo di aprirmi la porta», dissi. «Vi toccherà farlo molto spesso». Massimo Popolizio ha letto Le memorie di Barry Lyndon di William Thackeray,